sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Più di 20 anni fa, durante una festa medievale, mi fermai da una cartomante. Onestamente non ricordo quasi niente di quello che mi predisse. Però una cosa mi rimase in testa. Sono Giuseppe, ho 52 anni e vivo e lavoro a Sarnano, un paese bellissimo in provincia di Macerata. Sono sposato con Paola. Le nostre passioni sono contrastanti. Io amo lo sci e la montagna, mentre lei adora il mare. Però, tutto sommato, andiamo d'accordo lo stesso. Abbiamo due figli, Nicola e Francesca. E poi c'è Ben, dall'altra parte del mondo. Buongiorno Matteo, mi chiamo Serena e ti scrivo da sotto la pioggia che incessante continua a scendere sulla mia città, Genova. Ho accolto con piacere l'appello che Radio 24 e il tuo programma hanno lanciato per ricordare quello che è successo un mese fa, che era successo 3 anni fa e che sta, ahimè, succedendo di nuovo oggi. Dei piccoli torrenti che attraversano la città, dopo un paio di giorni di pioggia, si gonfiano come onde dell'oceano, incessanti, e improvvisamente fanno paura, molta paura. Possiedo da anni una piccola attività commerciale che da passione si è trasformata in un lavoro. Sono un'antiquaria. Dal momento che il 4 novembre del 2011 avevo già perso parte dei mobili che possedevo per la vendita e che conservavo in un magazzino barra negozio al piano terra di uno stabile, avevo preventivamente spostato il mio magazzino al primo piano di un palazzo vicino, prendendo in affitto un vecchio appartamento. In quel magazzino di proprietà però avevo tenuto un vecchio motorino, un Ciao, che uso solo con la bella stagione per fare qualche appuntamento di lavoro. Sai, spesso mi tocca andare a fare valutazione di mobili e arredamento in giro per la città e prenderne in considerazione l'eventuale vendita. Ecco, quel Ciao era rimasto là, in quello che si era trasformato di fatto in un garage. Ecco, con l'alluvione di un mese fa, quel povero Ciao è rimasto sott'acqua per un giorno intero e il motore è ormai non è più utilizzabile. Ecco, questo è il piccolo ma comunque fastidioso danno che l'alluvione di un mese fa ha portato nella mia vita e nella mia attività. I mobili sono salvi e asciutti, ma quel motorino ha finito di correre per le strade. L'unica cosa che spero di riuscire a fare è tirarlo bello a lucido e venderlo anch'esso come pezzo d'antiquariato, sperando però che non diventi metafora di questa città e di questa regione, che non possono trasformarsi in oggetti belli ma inutili e devono continuare a correre con affetto, Serena. Io ringrazio Serena per la lettera che ci ha mandato, dal momento che oggi toccava a noi raccontare un po' quello che è successo un mese fa e quello che, ahimè, è successo anche in questi giorni. Oggi qui è tornato un po' il sole e spero anche a Genova. La radio, però, tutta Radio 24 è vicina a quello che sta accadendo, quello che è accaduto un mese fa, e continua a raccontarlo in tutta questa settimana. In bocca al lupo a Serena, in bocca al lupo a tutta la città. 349-238-6666. Noi continuiamo a raccontare storie, storie che vanno in un'altra direzione, ovviamente, rispetto a quella che abbiamo preso leggendo la storia e la lettera di Serena. La storia è quella di Giuseppe e di Ben. Parla di diverse cose. Parla di un padre che è già genitore, ma che scopre che si può essere genitore anche di un'altra persona. Se quella persona è giovane, si comporta come un figlio e te la trovi in casa, anche se arriva dall'altra parte del mondo, se arriva dall'Australia. Oltre a questo, però, parla anche di una preveggenza, di una cartomante o chi per essa, che un giorno dice: tu diventerai padre per la terza volta, tu avrai 3 figli. E questa cosa che Giuseppe dice, boh, non ci ho mai creduto, in realtà alla fine succede. Se ci credete a maghi o cartomanti, se vi hanno predetto qualcosa che si è avverato, 349-238-6666. A Giuseppe ha funzionato, a Giuseppe esattamente è andata così. Premesso che non credo assolutamente a maghi e fattucchiere, volendo fare una sintesi dell'esperienza che abbiamo vissuto in famiglia l'inverno appena trascorso, ecco, posso riassumere il tutto in queste 4 parole. Quella maga aveva ragione. Più di 20 anni fa, durante una festa medievale che si tiene ogni estate a Sarnano, il nostro paese in provincia di Macerata, mi fermai da una cartomante, così, tanto per fare 2 risate. Onestamente non ricordo quasi niente di quello che mi predisse, anche perché non credo assolutamente a questi che dicono di avere dei poteri sovrannaturali. Però una cosa mi rimase in mente. forse perché era la più riscontrabile in concreto tra quelle pseudo previsioni. Facciamo un salto in avanti. Il 22 gennaio di quest'anno alla stazione di Ancona, mentre io, mia moglie Paola e i nostri ragazzi Nicola e Francesca salutavamo Ben con gli occhi rossi e le parole che non uscivano dalla gola, ecco, quel giorno ho scoperto che cosa significa quando si dice avere un groppo in gola. Ecco, quel giorno, quel 22 gennaio, si è aperto un file nella memoria del mio cervello e ho riascoltato la voce di quella cartomante che tanti anni fa mi aveva detto: tu nella vita avrai tre figli. Più che altro un gioco, ecco, sai, quando vedi il banchetto con la maga che con le persone in fila e ti metti lì e ti fai leggere le carte, ti dicono delle stupidaggini solitamente. Però tra queste stupidaggini poi io mi sono ricordato che disse: tu avrai tre figli. E questa cosa poi è ritornata con l'occasione dello studente, ecco. Noi, quando abbiamo deciso di offrire la nostra disponibilità ad ospitare uno studente straniero, non eravamo del tutto impreparati, anche perché lo scorso autunno Nicola, nostro figlio di 18 anni, aveva partecipato ad un programma di scambio culturale ed era stato 4 mesi ad Amburgo, quindi eravamo già abbastanza informati e consapevoli della situazione e di ciò che può accadere quando in una famiglia arriva un host student per un certo periodo di tempo. Ma se qualcuno mi avesse detto che il rapporto che si sarebbe creato ospitando Ben fosse stato così forte, profondo e incredibilmente familiare, beh, non ci avrei mai creduto. E dire che Nicola aveva vissuto la sua stessa identica esperienza. Evidentemente nel suo caso non è scattata quella scintilla che invece ha illuminato i mesi in cui Ben Murphy è stato a casa nostra, a Sarnano, in un paesino di 3.000 abitanti, lui che arrivava da Sydney, metropoli di 5 milioni di abitanti. Lui, un ragazzone del 97, cresciuto a Rugby e Vegemite, una strana salsa salata quasi immangiabile per noi ma molto popolare e usata come condimento dagli australiani. Era arrivato alla stazione quel sabato di settembre senza che sapesse una parola di italiano. Ciao, io sono Ben, questo era tutto il suo vocabolario. Con Ben abbiamo trascorso delle giornate indimenticabilmente normali, a guardare i film in televisione, il primo tempo in italiano e sottotitoli in inglese, e il secondo tempo in inglese e sottotitoli in italiano. Con Ben abbiamo organizzato alcuni fine settimana in giro per la nostra meravigliosa Italia e siamo stati orgogliosi di fargli vedere quanto è bella questa terra. Con Ben ho guardato non so quante partite di rugby in TV e lui a spiegarmi le regole che però, un po' per il mio scarso inglese e un po' perché sono veramente complicate, devo dire di aver capito solo in parte. Con Ben siamo stati in montagna e che bello vedere come in così pochi giorni abbia imparato a sciare e a scendere in quasi tutte le piste. Lui che conosceva solo il mare australiano. Con Ben siamo stati avversari tifosi al Comunale di Torino a vedere la partita di rugby Italia contro Australia il 9 novembre scorso. Lo stadio era pieno di italiani e bandiere italiane. Noi eravamo gli unici in tutto il comunale con una bandiera australiana. Poi il risultato è stato di 40-10 per loro, ma questa è un'altra storia. È andata bene perché è stato uno spettacolo. Le partite di rugby che io non conoscevo per niente sono bellissime, c'è un calore, un clima, è per me tutto molto bello. Tecnicamente non ci capisco, però è stata una disfatta per noi. Hanno vinto 40-10 e sembrava che loro passeggiassero. Però non ci capisco di rugby, quindi il mio giudizio tecnico conta niente. Con Ben ci siamo accorti ed abbiamo tentato di intervenire nel ruolo del genitore responsabile, così come facciamo con Nicola e Francesca, quando vedevamo che non aveva nessuna voglia di studiare. Questo strano fenomeno devo dire che è piuttosto universale, sia a Sarnano sia in Australia. Con Ben siamo tutti ingrassati di qualche chilo, arrivando a mangiare 7-8 etti di pasta a pranzo, visto che lui da solo ne spazzolava almeno 3. Per Ben siamo stati in pensiero, come lo siamo sempre per Nicola, quando la sera uscivano per andare al pub, alle feste o in discoteca, e finché non sentivamo il rumore del portone di casa che si apriva, non c'era verso di prender sonno. Con Ben ci siamo arrabbiati quando ogni volta che si doveva fare qualcosa o andare da qualche parte, lui era sempre in ritardo. "You are always late" è stata la frase più ricorrente in quei mesi. Con Ben abbiamo trascorso la cena della vigilia di Natale insieme ai nostri parenti, scambiandoci i regali in collegamento via Skype con Sydney, per lasciare che in una notte speciale come quella di Natale potesse restare in contatto con la sua famiglia dall'altra parte del mondo. E poi ancora tanti straordinari momenti in cui la nostra famiglia ha vissuto come se fossimo sempre stati in cinque e che resteranno dentro ciascuno di noi per sempre. Ben Murphy, quel ragazzone del 97, che nelle ultime settimane parlava un suo broken Italian e scriveva dei fantastici SMS in una neolingua tipo inglese moderno, U per U, R per R, Y per Y, mischiata a qualche parola in italiano, singolare, plurale, verbi all'infinito, tutto insieme ma assolutamente comprensibile. Devo per forza ritrovare quella cartomante e farle i miei complimenti. Quando disse "nella tua vita avrai tre figli", fece la migliore previsione della sua carriera di maga. Ben Murphy, da Sydney, Australia, è diventato in pochi mesi, insieme a Nicola e a Francesca, uno dei nostri tre figli, riuscendo a trasformare una normale esperienza di scambio culturale nella realizzazione di una piccola magia. Come brother, come slowly, come easy, my friend, come my friend, come my sister, come easy, come breezy on me, you can depend. Come my brother, put your hands up, take your heart out, let go. Fosse venuta la curiosità di vedere che faccia Ben, ma anche che faccia Giuseppe, andate sul nostro sito radio24.it, la nostra pagina, sempre quella Voi siete qui, e oltre ai brani che mandiamo in onda, ogni tanto lo ricordiamo, perché trovate i brani che abbiamo appena mandato, tutti e due i link, potete ascoltarveli, trovate la foto. Sono allo stadio comunale, ormai direi lo stadio olimpico di Torino, giusto? La stessa roba ormai, l'olimpico e il comunale sono lo stesso stadio, per la partita Italia-Australia, forse poco prima, forse poco dopo, hanno entrambi una bandiera, solo che Ben ha quella australiana e Giuseppe quella italiana. Giuseppe, buongiorno. Sì, ciao Matteo, buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene, bene, grazie. Dove ti, benone. Dove ti trovi in questo momento? In questo momento stavo aspettando la chiamata in autostrada, in un'area di servizio. Perché stai andando al lavoro, stai tornando dal lavoro, stai lavorando? Sto andando verso Bologna per una fiera da preparare. Tu che cosa fai esattamente, Giuseppe? Me lo ricordi? Allora, io ho un'azienda di commerciale che si occupa di prodotti, attrezzature, macchine per il giardinaggio. Ah, quindi, quindi c'è una fiera importante, dobbiamo ovviamente, cioè, bisogna essere lì. Scusami Giuseppe, poi torniamo alla storia. Hai sempre fatto questa? Quando mi capita di incontrare persone che hanno mestieri così specialistici e specializzati, mi domando, com'è cominciato? Cioè, hai sempre avuto una passione per il giardinaggio o facevi altro e ci sei capitato? La colpa è di mio padre, la colpa è tutta sua, perché io mi sono trovato in questo lavoro fin da bambino, mio padre ha inventato questa cosa tanti anni fa e poi io mi sono trovato a continuare l'attività, adesso lavoriamo insieme e abbiamo costruito piano piano questa attività, però diciamo che è stato un continuare, un migliorare una cosa nata tanti anni fa. E come va in questo periodo? C'è un po' di flessione oppure riuscite a tenere botta? Ma guarda, il settore non è peggiore di tanti altri, certo. La crisi si sente, qualche difficoltà c'è, soprattutto l'aspetto finanziario, c'è poco giro di soldi, se no il settore diciamo che ancora funzionicchia, diciamo che funzionicchia. Chi ha un giardino comunque ha voglia di curarsi, quindi taglia l'erba, certo. Sistema la siepe, è un settore che ancora può fare, secondo me può fare in futuro anche meglio, perché in Italia siamo un po' indietro come mentalità, certo, nel giardinaggio, certo. Però il momento oggettivamente è difficile, è, soprattutto c'è poca disponibilità, chiaro, economica, quindi si tende a rimandare, riparare le cose, certo, vecchie e rimandare l'acquisto del nuovo. Giuseppe, invece come sta Ben? Dacci notizie di lui. Ben sta ottimamente, ci siamo sentiti sabato via Skype, contentissimo perché è diventato il capitano, mi ha spiegato una roba strana, là in Australia hanno la scuola è molto impermeata nello sport, sì, e nella sua scuola hanno fatto 4 grandi gruppi e lui è il capitano di uno di questi gruppi e quindi adesso è tutto contento perché mi ha fatto vedere la medaglia con tutti gli distintivi. Da quant'è che non lo vedi? Quando è che è partito? Lui è andato via alla fine di gennaio. Ah, quindi neanche un anno? Non è neanche un anno, no. E manca a tutti? Sì, direi di sì, perché il rapporto che si era creato era veramente particolare, siamo entrati in sintonia subito tutta la famiglia, quindi poi magari adesso sono passati dei mesi e molto molto meno, però i primi tempi si sentiva effettivamente quella sedia che mancava lì a tavola, eravamo ormai abituati ad essere in 5. Certo. E quindi Giuseppe, guarda, è bello così. Proprio una cosa sul ruolo del genitore volevo chiederti, cioè tu hai 2 figli, no? E come giustamente dici nella tua storia, insomma, già so cosa vuol dire fare genitore, perché hai Nicola e Francesca, giusto? Esatto, Nicola, sì. E Francesca, tu sei riuscito a sentirti comunque genitore di un ragazzo che non era tuo figlio biologico? Cioè a un certo punto è successo che niente, lui era vostro figlio, punto e basta? Come posso spiegarmi? Sì e no, nel senso sì, ma solo per le cose belle, nel senso che quando hai dei figli hai anche delle responsabilità. Certo. E quindi ti senti il dovere di, come posso dire, di insegnare, no? Quindi di rimproverare se serve, di guidare, di fare anche il lavoro sporco, di dire qualche no e di scontrarti, chiaro. Invece lì è solo la parte bella. Con Belle c'era la parte solo divertente, perché è un ragazzo ospite, io non dovevo insegnare niente, io, certo. Noi abbiamo pensato solo di farlo trovare bene, di farlo divertire, di fargli di lasciargli un ricordo bello dell'Italia, chiaro, della nostra famiglia, quindi è stata questa cosa, magari i figli un po' l'hanno sofferta, perché come puoi capire il pizzichetto di gelosia, no? Specialmente ma come, a me mi rimproveri, a me questa cosa non me l'hai fatta fare, e a questo gli fai passare tutto, cioè, tutto si può fare, però vabbè, quindi il contesto immagino fosse particolare. Senti Giuseppe, devo salutarti, ma ti ringrazio per la chiacchierata, salutaci Ben e fagli sapere, insomma, se un po' capisce l'italiano fagli scaricare il podcast magari. Va bene. Il prossimo collegamento lo informo, ok. Grazie va ancora, bene. Ciao Giuseppe, a presto, buona giornata. Ciao. Insomma, alla fine, dalla storia di Giuseppe ho capito un po' di cose. Ho capito che, primo, agli australiani piace la pasta. Secondo, agli australiani piace il rugby. Terzo, agli australiani piace l'Italia. Quarto, in generale, agli australiani piace godersi la vita. Ma soprattutto, quinto, ho capito che incontrare persone lontane e vivere con loro ci fa capire che non siamo così soli e diversi da tutti gli altri. Chiudiamo questa puntata di Voi Siete Qui leggendo qualche sms che è arrivato al 349-238-6666. Si parla di predizioni di maghi, cartomanti, gente che aveva letto le mani. Sandro, mi avevano predetto che avrei trovato lavoro entro un mese, sono disoccupato da 2 anni. Sandro, torna là e digli, senti, dammelo tu un lavoro. Amalia, una cartomante a Brera, che è qui una zona qui di Milano ovviamente, dove ci sono diversi cartomanti anche in inverno, mi aveva letto sulle mani la nascita di una figlia. Ero single e mi sembrava impossibile. Dopo 2 mesi ho trovato il mio futuro marito e dopo 4 ero incinta. Un disclaimer finale, questa non è una puntata in cui diamo corda ovviamente a cartomanti o a maghe in genere, non siamo Striscia la Notizia, semplicemente raccontiamo storie, ogni tanto lo ricordiamo. Grazie a Pietro La Corte, grazie a Miriam Lucchetti, grazie a Tiziano Bonini, grazie soprattutto a Giuseppe, ovviamente, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Costantino, vivo da Aosta, la storia di domani è la mia e parla del viaggio della fiamma olimpica. Questa è la mia storia e io sono qui.